Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Stava nevicando di nuovo. Jadwiga cucinava uno stufato come si preparava cifca, fu un miscuglio di fiocchi d'avena, fave, funghi secchi e patate, insaporito con paprika e prezzemolo. Dalla radio veniva una canzone di un'operetta yiddish che Jadwiga scambiava per un canto religioso. I pappagallini reagivano alla musica a modo loro, stridevano, fischiavano, ciangottavano e volavano qua e là nella stanza. Jadwiga dovette mettere i coperchi sulle pentole per evitare che gli uccelli, Dio non volesse, ci cadessero dentro. Mentre stava scrivendo, Herman si sentì sopraffatto dalla stanchezza, posò la penna, rovesciò il capo all'indietro, contro la spalliera e cercò di schiacciare un pisolino. Nel Bronx, Masha non era ancora tornata al lavoro, perché continuava a sentirsi debole, era scivolata nell'apatia. Quando lui le parlava, gli rispondeva concisamente e a tono, ma in un modo tale che non restava più niente da dire. Cifra qua pregava tutto il giorno, come se Masha fosse stata ancora pericolosamente malata. Herman sapeva che senza il salario di Masha non avevano abbastanza denaro, nemmeno per le cose essenziali, ma anche lui era rimasto a corto di fondi. Masha gli aveva suggerito il nome di un'agenzia di prestiti, dove avrebbero potuto ottenere un centinaio di dollari con un tasso di interesse molto elevato. Ma per quanto tempo gli avrebbero prestato una somma simile? Poteva darsi, inoltre, che volessero la firma di un garante. Jadwiga entrò dalla cucina. Herman, lo stufato è cotto. Sono cotto anch'io, finanziariamente, fisicamente, spiritualmente. Parla in modo che ti possa capire. Se non sbaglio, volevi che ti parlassi in Yiddish. Parla come parlava tua madre. Non posso parlare come parlava mia madre. Lei credeva e io non sono nemmeno ateo. Non so di che cosa tu stia cicalando. Vieni a mangiare. Ho cucinato uno stufato di fiocchi d'avena, come a cifca. Herman stava per alzarsi quando suonò il campanello della porta di casa. Probabilmente una delle tue amiche è venuta a farti lezioni, le disse. Jadwiga andò ad aprire. Herman tracciò una croce sull'ultima mezza pagina che aveva scritto e mormorò. Bene, Rabbi Lampert, il mondo si accontenterà di una rete. A un tratto udì un grido soffocato. Jadwiga rientrò di corsa nella stanza e chiuse la porta sbattendola. Si era sbiancata in viso e sembrava che avesse gli occhi arrovesciati. Rimase lì, tremante, la mano sulla maniglia, come se qualcuno avesse cercato di entrare a forza. Un pogrom? L'idea balenò nella mente di Herman. Chi è? Domandò. Non andare, non andare! Oh mio Dio! Bava apparve sulla bocca di Jadwiga mentre cercava di sbarrargli la strada. La faccia era stravolta. Herman sbirciò la finestra. La scala antincendi non passava da lì. Fece un passo verso Jadwiga e lei lo afferrò per i polsi. In quel momento la porta si aprì ed apparve Tamara con una pelliccia malconcia, il cappellino e gli stivali. Capì all'istante. Smettila di tremare, idiota! Urlò a Jadwiga. Evviva! Gesù Maria! Jadwiga scuoteva la testa convulsamente e si spinse contro Herman con tutta la sua forza, facendolo quasi cadere. Non credevo che mi avrebbe riconosciuta, disse Tamara. Evviva, evviva, non è morta! Urlò Herman. Cominciò a lottare con Jadwiga, cercando al contempo di calmarla e di respingerla. Lei gli si avvinghiava, gemendo. Quei gemiti sembravano l'ululato di un animale. Evviva! Evviva! Gridò lui una volta di più. Calmati, stupida contadina! Oh, madre santa, mio cuore, mio cuore! Jadwiga si fece il segno della croce. A un tratto si non si fa il segno della croce. Le giunse le mani. Gli occhi sembravano sul punto di schizzarle dalle orbite. La bocca era contorta come se avesse voluto lanciare urla che non riusciva a emettere. Tamara fece un passo indietro. Non mi è mai passato per la mente che potesse riconoscermi. Perfino mia madre non mi riconoscerebbe. Calmati, Yasha, disse in polacco. Non sono morta e non sono venuta a tormentarti. Herman disse a Tamara. Ma perché hai fatto una cosa simile? Sarebbe potuta morire di spavento. Mi dispiace. Credevo di essere molto cambiata, di non somigliare più a quella di un tempo. Volevo vedere dove vivi. Avresti potuto almeno telefonare. Sono incinta! Gridò Jadwiga. Si mise una mano sul ventre. Tamara sembrava sorpresa, ma anche sul punto di scoppiare a ridere. Herman la fissò. Sei pazza o ubriaca? Le domandò. Subito dopo aver pronunciato queste parole sentì l'odore dell'alcol. Una settimana prima Tamara gli aveva detto che doveva entrare in ospedale per farsi estrarre la pallottola dal fianco. «Ti sei data ai superalcolici?» domandò. Quando una persona non può avere le cose dolci della vita, si consola con quelle forti. Sei sistemato qui molto comodamente. Il tono di Tamara mutò all'improvviso. Quando vivevi con me, eri sempre circondato dal disordine. Le tue carte, i tuoi libri, i tuoi trovavano dappertutto. Qui tutto è in ordine perfetto. Lei tiene la casa pulita, mentre tu andavi in giro a tenere discorsi ai sionisti polacchi. Dov'è il crocifisso? Domandò Tamara in polacco. Come mai non c'è un crocifisso appeso qui? Visto che non esiste una mezzuzà, deve esserci il crocifisso. La mezzuzà c'è, rispose Jadwiga. Deve esserci anche un crocifisso, disse Tamara. Non credere che sia venuta qui a turbare la vostra felicità. Ho imparato a bere in Russia e dopo un bicchierino divento curiosa. Volevo vedere coi miei occhi come vivi. In fin dei conti abbiamo ancora qualcosa in comune. Tutti e due, vi ricordate, quando ero viva. Gesù Maria, Gesù Maria! Non sono morta, Yasha, non sono morta. Non sono viva e non sono morta. La verità è che non ho alcun diritto su di lui, disse Tamara additando Herman. Non sapeva che io stavo lottando per sopravvivere laggiù e probabilmente ha sempre amato te, Yasha, senza dubbio aveva dormito con te prima che con me. No, no, io ero una ragazza innocente, mi ha avuta vergine, disse Jadwiga. Ah, congratulazioni, agli uomini piacciono le vergini. Se gli uomini potessero fare loro ogni donna si coricherebbe prostituta e si rialzerebbe vergine. Bene, mi rendo conto di essere un ospite non invitata e ora me ne vado. Pani Tamara, si accomodi, mi ha spaventata e questa è la ragione per la quale mi sono messa a gridare. Ora servirò il caffè. Dio mi è testimone che se l'avessi saputa viva mi sarei tenuta lontana da lui. Non ti porto alcun rancore, Yasha. Questo nostro mondo è avido. Non hai fatto un grande affare con lui, però, soggiunse Tamara additando Herman. Ma qualunque cosa è meglio che star soli. Anche l'appartamento è grazioso. Noi non abbiamo mai avuto un appartamento così bello. Vado a prendere il caffè. Gradirebbe, Pani Tamara, qualcosa da mangiare? Tamara non rispose. Jadwiga andò in cucina strascicando sul pavimento le pantofole. Lasciò la porta aperta. Herman notò che i capelli di Tamara erano scompigliati. Aveva borse giallognole sotto gli occhi. Non sapevo che tu bevessi, le disse. Ci sono tante cose che non sai. Tu credi che si possa attraversare l'inferno e uscire nei paesi? Beh, non è possibile. In Russia c'era una sola cura per ogni malattia, la vodka. Bevevi fino a saziarti. Ti sdraiavi sulla paglia o sulla nuda terra e non ti curavi più di niente. Facessero Dio e Stalin quello che volevano. Ieri sono andata a far visita a certe persone che hanno un negozio di liquori. Mi hanno riempito di bottiglie di whisky la borsa della spesa. Credevo che dovessi essere ricoverata in ospedale. Dovrei entrarci domani, ma non so bene se lo voglio ancora. Questa pallottola, disse mettendosi la mano sul fianco, è il mio più bel ricordo. Mi rammenta che un tempo avevo una casa, genitori e figli. Se me la toglieranno non mi resterà proprio più niente. Era una pallottola tedesca, ma dopo essere rimasta così a lungo nel corpo di un'ebrea, è diventata ebraica. Potrebbe decidere di esplodere un giorno o l'altro, però nel frattempo se ne sta qui tranquilla e andiamo perfettamente d'accordo. Avanti, toccala se vuoi. Anche tu sei interessato. La stessa rivoltella può aver ucciso i tuoi figli. Tamara, ti supplico. Tamara fece una smorfia sprezzante e gli ordinò la pallina. Ti supplico, Tamara. Non aver paura, non divorzierà. E se lo farà, potrai sempre andare da quell'altra. Com'è che si chiama, a proposito? Se poi anche lei ti metterà alla porta, potrai sempre venire da me. Ecco, Yasha con il caffè. Jadwiga entrò reggendo un vassoio con due tazze di caffè, la panna, lo zucchero e un piatto di dolci fatti in casa. si era messa un grembiule e aveva proprio l'aspetto della cameriera che era stata un tempo. Nello stesso modo serviva Herman e Tamara quando erano arrivati a casa dei genitori di lui da Varsavia. La sua faccia, poco prima pallida, era adesso rossa e madida. Aveva sulla fronte goccioline di sudore. Tamara la fissò, al contempo stupefatta e ridente. «Metti giù il vassoio, va a prendere una tazzina anche per te», le disse Herman. «Il mio lo berrò in cucina». E una volta di più, Jadwiga ci abbattò, tornando indietro. Questa volta si chiuse la porta alle spalle. «A quanto pare sono capitata qui dentro come un elefante in un negozio di porcellane», disse Tamara. «Quando le cose vanno storte è difficile comportarsi bene. È vero che ho bevuto, ma sono tutt'altro che ubriaca. Chiamala, per favore, devo spiegarle». «Le spiegherò tutto io stesso». «No, no, falla venire qui. Probabilmente penserà che sia venuta per portarle via suo marito». Herman andò in cucina e si chiuse la porta alle spalle. Jadwiga si trovava in piedi davanti alla finestra e voltava le spalle alla stanza. I suoi passi la spaventarono e girò sui tacchi bruscamente. Aveva i capelli scarmigliati, gli occhi pieni di lacrime, la faccia rossa e gonfia, sembrava invecchiata. Prima che Herman potesse dire qualcosa, si premette i pugni sulle tempie e gemette. «Dove andrò adesso?» «Yasha, tutto rimarrà come è sempre stato». Un grido simile al sibilo di un'oca sfuggì dalla gola di Jadwiga. «Perché mi dicesti che era morta? Tu non vendevi libri, andavi a stare con lei!» «Yasha, ti giuro su Dio che non è così. È arrivata in America soltanto di recente. Non avevo idea che fosse viva. Sei tu, mia moglie». «Lei c'era prima di me. Me ne andrò. Tornerò in Polonia. Se soltanto non fosse indecisa da vivere un milino». Jadwiga cominciò a dondolarsi da un lato all'altro. Tamara aprì la porta. «Yasha, non piangere così. Non sono venuta a portarti via tuo marito. Volevo soltanto vedere come vivete». Jadwiga si gettò avanti, come se fosse stata sul punto di cadere ai piedi di Tamara. «Padre Tamara, lei è sua moglie e così rimarranno le cose. Se Dio le ha concesso di vivere, si tratta di un dono. Io mi farò da parte. La casa è sua. Tornerò in Polonia. Mia madre non mi scaccerà». «No, Yasha, non c'è alcuna necessità che tu faccia questo. Porti nel ventre il suo bambino, mentre io sono ormai, come dicono, un albero secco. Fu Dio stesso a togliermi i miei figli». «Oh, pane, Tamara!» Jadwiga si sciolse in lacrime, schiaffeggiandosi le gote con entrambi i palmi. Herman sbirciò la porta, temeva che le vicine potessero sentirla. «Yasha, devi calmarti», disse Tamara con fermezza. «Io vivo, ma è come se fossi morta. Dicono che i defunti talora tornano a far visita ai vivi e, in un certo senso, io sono una visita di quel genere. Sono venuta a vedere come stanno le cose, ma non preoccuparti, non tornerò più». Jadwiga si tolse le mani dalla faccia, divenuta color della carne viva. «No, pani Tamara, lei rimarrà qui. Io non sono altro che una semplice contadina ignorante, ma ho un cuore. Si tratta di suo marito e della sua casa. Ha già sofferto abbastanza». «Taci, non lo voglio. Se desideri tornare in Polonia, tornaci, ma non a causa mia. Non vivrei con lui nemmeno se tu te ne andassi». Jadwiga si calmò. Sbirciò Tamara in tralice, dubbiosa, sospettosa. «E dove andrà? Qui ci sono una casa e una famiglia per lei. Io cucinerò, farò le pulizie, tornerò a essere una serva, così vuole Dio». «No, Jadwiga, tu hai un buon cuore, ma non posso accettare un simile sacrificio. Una gola squarciata non può essere ricucita». Tamara, preparandosi ad andarsene, si aggiustò il cappellino e mise a posto alcune ciocche di capelli. Herman fece un passo verso di lei. «Non andartene. Dato che Jadwiga sa, potremmo essere tutti amici. Dovrò raccontare meno bugie». In un momento udirono il campanello della porta di casa. Fu uno squillo lungo e forte. I due pappagallini, rimasti appollaiati sul tetto della gabbia in ascolto della conversazione, si spaventarono e cominciarono a volare qua e là. Jadwiga corse dalla cucina al soggiorno. «Chi è?» gridò Herman. Udì parole soffocate, ma non riuscì a distinguere se la voce fosse quella di un uomo o di una donna. Aprì la porta In piedi, sul pianerottolo, c'era una coppia di piccola statura. La donna aveva una faccia giallognola e rugosa, gli occhi giallastri e i capelli color carota. Le rughe sulla fronte e sulle gote sembravano scolpite nell'argilla, ciò nonostante non dimostrava più di 40 anni. Indossava un vestituccio da casa e calzava un paio di pantofole. Aveva portato con sé un lavoro a maglia e speruzzava stando davanti alla porta. Accanto a lei si trovava un ometto minuscolo, con un cappello di feltro decorato da una piuma, una giacca a scacchi troppo leggera per quella giornata invernale, una camicia rosa, pantaloni a righe, scarpe gialle e una cravatta che era tutto un miscuglio di giallo, rosso, verde. Sembrava bizzarramente comico, come se fosse appena arrivato in aereo da qualche clima caldo e non avesse avuto il tempo di cambiarsi l'abito. La testa di lui era lunga e stretta, con un naso a becco, le gote scavate e il mento appuntito. Gli occhi scuri avevano un'espressione burlesca, come se la visita che stava facendo fosse soltanto uno scherzo. La donna parlò di un'indice dall'accento polacco. «Lei non mi conosce, signor Broder, ma io la conosco. Abitiamo al piano di sotto. Sua moglie è in casa?» «È nel soggiorno. Un'anima buona. Mi trovavo con lei quando si convertì. Fu io a condurla al bagno rituale e a dirle che cosa doveva fare. Le donne nate ebree dovrebbero amare l'ebraismo quanto lei. È occupata adesso?» «Sì, un po'. Questo è il mio amico, il signor Peschles. Non abita qui, ha una casa a Seagate, che il malocchio possa non toccarlo mai. Possiede case anche a New York e a Filadelfia. È venuto a farci visita e gli abbiamo parlato di lei, gli abbiamo detto che vende libri e scrive, e ora vorrebbe parlarle di affari.» «Ma che affari? Niente affari, assolutamente!» la interruppe il signor Peschles. «Il mio lavoro non concerne i libri, ma le proprietà immobiliari, e anche di questo non mi occupo più, e in fin dei conti, quanti affari ha bisogno di concludere un uomo? Anche Rockefeller non può mangiare più di 3 pasti al giorno. È soltanto che mi piace leggere qualunque cosa sulla quale riesco a mettere le mani. Se dispone di qualche minuto, vorrei fare una chiacchierata con lei.» Herman esitò. «Mi spiace tanto, ma sono davvero occupatissimo.» «Non ci vorrà molto, 10 minuti, un quarto d'ora», lo esortò la donna. «Il signor Peschles viene a trovarci soltanto una volta ogni 6 mesi. È un uomo ricco, posso essere di più per il giorno di malocchio, e se per caso lei sta cercando un appartamento, potrebbe renderle un favore.» «Che genere di favore? Io non faccio favori, anch'io devo pagare l'affitto, siamo in America qui, ma se ha bisogno di un appartamento posso raccomandarla.» «Bene, si accomodi, mi scusi se la ricevo in cucina, mia moglie è indisposta.» «Ma che differenza fa dove lo riceve?» disse la vicina. «Non è venuto qui per essere onorato, e di onori ne ha. Possa non toccargli mai il malocchio, ne ha in abbondanza. Lo hanno appena nominato presidente del più grande ospizio per i vecchi di New York. Dappertutto in America sanno chi è Nathan Peschles. E ha appena costruito 2 yeshiva a Gerusalemme, non una yeshiva, ma 2, dove centinaia di ragazzi potranno studiare la Torah. A sue spese. La prego, signora Schreier, non ho bisogno di alcuna pubblicità. Se mi serve un agente pubblicitario, lo assumo. Il signore non ha bisogno di sapere tutte queste cose.» Il signor Peschles parlava in fretta, sputava le parole come se fossero piselli secchi, sorrideva con un'aria saputa e la disinvoltura del riccone che fa visita ai poveri. I 2 avevano continuato a restare in piedi sulla soglia, ma a questo punto entrarono nella cucina. Prima che Herman avesse avuto modo di presentare Tamara, lei disse: «Farò meglio a andare adesso.» «Ma via, non ha nessun bisogno di andarsene per me», disse il signor Peschles. «Lei è una donna graziosa. Beh, io non sono un orso e non divoro la gente.» «Si accomodino», disse Herman. «Non te ne andare, Tamara», soggiunse. «Vedo che non ci sono abbastanza sedie, ma passeremo subito nell'altra stanza. Soltanto un secondo.» Entrò nel soggiorno. Jadwiga non piangeva più. Era lì, in piedi, e fissava la porta con apprensione, con il timore che hanno i contadini degli sconosciuti. «Chi è?» «La signora Schreier ha portato con sé un uomo.» «Che cosa vuole? Non posso ricevere nessuno adesso. Oh, sto impazzendo!» Herman tornò in cucina con una sedia. La signora Schreier sedeva già al tavolo di cucina. Wojtusz si era appollaiato sulla spalla di Tamara e le tirava un orecchino. Herman udì il signor Peschles dire a Tamara: «Soltanto poche settimane, ma lei non ha affatto l'aria di una novellina. Ai miei tempi si poteva distinguere un immigrato da 1 chilometro di distanza. Lei invece sembra americana, assolutamente!»